Italia in controluce. È il pomeriggio di Radio 24 e oggi è il 31 di ottobre e questa Italia in controluce vi parla Daniele Biacchessi. Accadeva 9 anni fa a San Giuliano di Puglia, la memoria del terremoto nel reportage di Cristina Carpinelli. È il 31 ottobre del 2002. Un terremoto dell'ottavo grado della scala Mercalli fa tremare il Molise. La zona più colpita è San Giuliano di Puglia, uno dei comuni della regione che si trova a 60 km da Campobasso e a 1210 abitanti. In tutta la zona crolla un solo edificio, la scuola di San Giuliano di Puglia. Si chiama Francesco Iovine. Sotto le macerie restano intrappolati 56 bambini, 4 maestre e 2 bidelle. Angelo, spostati un pochino la copertina, zio. Mamma! Sono quasi arrivati, dai. È il braccio! 27 bambini e una maestra moriranno. La notizia fa in un attimo il giro del mondo. At least 5 children. Según una noticia de última hora, otro niño ha sido rescatado con vida entre los escombros de la escuela italiana. Good morning. It was about this time yesterday. Le bilan s'alourdit en Italia. At least 5 children. Il 3 novembre 2002 si terranno i funerali. La madre di un bambino, davanti alle massime autorità dello Stato, dirà queste cose. Io sono la mamma di Luigi, ma sono la mamma di tutti questi angeli. A nome di tutte voi e di tutti i papà, affidiamo al Signore questi nostri angeli, gli angeli di San Giuliano. Sono vicini a noi, noi siamo fortunati perché abbiamo il loro volto vicino a noi. E a tutti chiedo una sola cosa, che le nostre scuole siano più sicure. Non voglio assolutamente che nessuna mamma e nessun papà, nessuno pianga più i suoi figli. La maestra Clementina Simone si ricorda che sotto le macerie, schiacciati al buio, tutti si chiamavano e pregavano. La maestra Clementina sotto le macerie faceva l'appello e da lì sotto sentiva che alcuni bambini non rispondevano più. A distanza di 9 anni, il dolore è talmente grande ancora che un'altra maestra, Anna Tomaro, sopravvissuta al crollo, ci dice solo queste poche cose. Psicologicamente mi sento male, come se mi sono sentita male l'altro giorno che ho visto l'altro terremoto della Turchia e quella signora che strillava e io mi sono rivista, signora, per carità. Le indagini della magistratura evidenzieranno che alla base del crollo della scuola Francesco Iovine c'era stata la creazione di una sopraelevazione della scuola senza che fosse stato redatto alcun progetto strutturale esecutivo, comprendente, come invece avrebbe dovuto, elaborati grafici, calcolazioni e relazione illustrativa dei materiali, della sopraelevazione e degli interventi necessari al suo inserimento nell'organismo edilizio esistente, senza che fosse stata presentata la denuncia al Genio Civile e contestualmente effettuato il deposito della documentazione di progetto, senza che, in corso d'opera, si fosse proceduto alla verifica della qualità dei materiali impiegati e alle prove, senza collaudo statico. Quando la scuola di San Giuliano crolla, il preside, allora, era Giuseppe Colombo. Lo abbiamo ritrovato e ci ha raccontato questo. Io stavo in ufficio, stavamo proprio dibattendo questa situazione che si era verificata la notte e io avevo avuto riscontro quella mattina, perché ho detto ma non è che stanotte ha fatto, no, gli assistenti e compagnia mi hanno confermato, allora ho dato subito disposizione ai collaboratori di verificare se ci fossero state, se avessero potuto rilevare delle lesioni. Avevo alle 11 l'appuntamento con gli alunni e i professori, perché nel plesso della scuola elementare si sarebbe dovuta rappresentare qualcosa inerente la Halloween. un'assistente amministrativa, mentre mi stava consegnando un po' tutto quello che dovevo portare a San Giuliano, e in quel momento proprio è successo di tutto, perché c'è stata questa scossa di terremoto che c'è stato di anche in questa tragedia, qualcosa che insomma è stato un elemento, diciamo così, che ha salvato tante altre vite umane. Pensiero di una professoressa, la professoressa Terzano, responsabile del plesso della scuola media, che ha pensato nel mentre io fossi arrivato lì, di portare tutti i ragazzi della scuola media alla sede della scuola dell'infanzia adiacente. Mentre tutti si sono portati è capitato tutto quello che lei sa. Per giunta, se io mi fossi trovato alle 11 all'appuntamento, tutti saremmo stati giù nell'androne della scuola elementare, e lì proprio c'era un pilastro, l'androne, realizzato in malta e mattoni, e quindi quel pilastro, come c'è stata la scossa, è crollato, e quindi è collassato tutto poi sulla testa dei nostri ragazzi. Quindi se noi ci fossimo trovati tutti là sotto, ecco, saremmo morti tutti, perché non avremmo avuto nemmeno i muri divisori, le cattedre, i banchi che ci avrebbero potuto salvare. Quello che cerco di capire è, oggi, a 9 anni di distanza, le scuole in Italia sono state sensibilizzate sul tema della sicurezza sismica? Io penso di sì, perché con tutto quello che è successo, anche qui adesso a Termoli, c'è una nuova, penso, sensibilità. È normale, insomma, anche dopo tutte le sentenze, quindi c'è stata la sentenza della Corte di Cassazione, lei ha visto come è terminata, e quindi insomma tutti gli amministratori, i dirigenti, penso che siano più desti da questo punto di vista. Dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo. Però non è così, non sta andando così. E quanto ci raccontano i rappresentanti del Comitato delle Vittime di San Giuliano di Puglia quando commentano il crollo della Casa dello Studente durante il terremoto dell'Aquila. A 9 anni di distanza non è cambiato nulla, e l'appello straziante della madre di Luigi, il bambino morto nella scuola, resta nell'aria. Antonio Morelli, presidente del Comitato Vittime di San Giuliano di Puglia. Tutti ricordate, credo, che il 31 ottobre del 2002 una scuola uccise 27 bambini e una loro insegnante. A distanza di 9 anni ci siamo chiesti e ci siamo interrogati che cosa realmente fosse cambiata da quel 31 ottobre del 2002, dopo le tantissime promesse fatte dai tanti politici venuti in quel territorio di San Giuliano di Puglia. Dobbiamo dire con molta tristezza che poco, pochissimo è stato fatto. Tant'è vero che l'Aquila ci insegna, Rivoli e tante altre tragedie vissute negli ultimi tempi in questo territorio, in questa nostra Italia. Nel processo di appello per il crollo della scuola di San Giuliano sono stati 5 gli imputati condannati. Per il 6º, il costruttore dell'edificio, Giuseppe Uliano, è stata confermata l'assoluzione di primo grado. Queste le condanne: 6 anni e 10 mesi di reclusione per l'impiegato comunale Mario Marinaro, responsabile della pratica per la sopraelevazione della scuola, e Giuseppe Lasserra, progettista e direttore dei lavori; 5 anni agli imprenditori Carmine Abiuso e Giovanni Martino; 2 anni e 11 mesi all'allora sindaco Antonio Borrelli, che nel crollo perse la figlia. Le condanne sotto i 3 anni beneficiano dell'indulto. In primo grado gli imputati vennero tutti assolti per i reati di omicidio, disastro colposo e falso ideologico. Il processo di secondo grado si svolse per questioni di sicurezza nella caserma regionale dei carabinieri del capoluogo ed è durato in tutto 13 udienze. Era la seconda edizione di Italia in Controluce. Torniamo domani alle 13:30 su Radio 24.